Disco Della Senza Manna. La voce della ragazza che canta, Mauro, io l'ho già sentita. Non so se tu te la ricordi, non lo so, a me viene in mente in radio oppure in strada a un festival bellissimo che si tiene a Ferrara. O forse anche come collaborazione in un qualche album che a noi era piaciuto un casino. Secondo me stiamo parlando proprio della stessa persona. È la stessa persona che si chiama Ambra Marie. Ecco chi era. Hai visto? Perché io lo sapevo chi era Quindi Mauro. era lei in questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Esatto, il pezzo che abbiamo appena ascoltato ha la voce di Ambra Marie, però non è il suo album. In realtà lei ha creato assieme ad altri musicisti un gruppo con un nome bellissimo che ha presentato il debut album il 15 aprile, quindi pochissimi giorni fa. Tra l'altro il nome è molto interessante, tipo quando... Ma come si chiamava quel tipo là che abbiamo visto alla stazione John qualcosa, tipo così, no? Secondo me l'hanno scelto in sto modo qua il Tu nome. dici? Sì, perché il gruppo che abbiamo appena ascoltato e che vi presentiamo oggi si chiama John qualcosa. Benissimo. E infatti, appunto, è uno di quei nomi che dici: ma sì, dai, vi presento tal dei tali, ecco più o meno. Invece, John qualcosa è la versione più international. L'album si chiama Sopravvivere agli amanti. Quest'album, abbiamo detto, è uscito pochissimi giorni fa ed è un album completamente autoprodotto che hanno fatto uscire Ambra Marie e Raffaele Dabrusco, che assieme compongono appunto i John qualcosa. Il duo poi si avvale della presenza di altri musicisti che dopo ricorderemo per la creazione di questi brani che sono un pochino particolari. Allora, la voce di Ambra Marie secondo me spacca, cioè nel senso ha una voce molto profonda, molto bella lei e quando senti questi pezzi è un po' la prima cosa che ti salta all'orecchio, direi, no? Abbiamo ascoltato pochi minuti fa il pezzo che dà il titolo all'album e anche che apre direttamente le 9 tracce, la tracklist di Sopravvivere agli amanti, e appunto si chiama Sopravvivere agli amanti, ma io continuerei ascoltando un altro brano che secondo me è molto carino e si chiama La mia Amsterdam. La mia Amsterdam è la traccia numero 5 di questo album, composto da 9 canzoni. Adesso ve la facciamo ascoltare, dopodiché vi raccontiamo ancora qualcosa sui John qualcosa. Biciclette, perdersi dentro quelle strade strette. Voglio restare qui ad Amsterdam, voglio restare qui ad Amsterdam. Mangiare torta fino a scoppiare, ma poi stai attenta che puoi stare male. Facciamo un giro e ti passerà, fino al mercato che ti passerà. Sempre qualcosa di cui parlare e senza voglia di lavorare. E fuori dentro dai caffè col nostro inglese improbabile. Oh. Perché non prendiamo casa? Potrei sempre lavare i piatti in quella pizzeria italiana che costava poco. Perché non prendiamo casa? Potrei sempre suonare ai bordi delle strade piene di gente che ride. Perché non prendiamo casa? Ho avuto un po' paura e adesso ne ho di più. Farsi investire dalle biciclette, perdersi dentro a quelle strade strette. Voglio restare qui ad Amsterdam, voglio restare qui ad Amsterdam. Mangiare torta fino a scoppiare, ma poi stai attenta che puoi stare male. Facciamo un giro e ti passerà, fino vicino al mercato che ti passerà. Questa traccia piace particolarmente lo scampanellio iniziale delle biciclette, e anche quando lei dice vabbè posso andare a fare la lavapiatti in quella pizzeria italiana, cioè dimmi che tu non hai mai pensato di trasferirti all'estero e andare a fare tipo un lavoro così un po' così, un lavoro così arrabattato per rimanere a vivere in un paese straniero. Beh, poi le biciclette fanno molto Amsterdam, eh. Tu tra l'altro la conosci Amsterdam? Ma sì, io ho fatto un periodo in Olanda un bel po' di anni fa, ormai era, non ricordo più, 2009 tipo, e c'erano biciclette ovunque, parcheggi di biciclette tipo sopraelevati, cose, garage per biciclette. Cioè biciclette ovunque come a Bologna un po' però. No, è molto di più. Vabbè, allora torniamo a parlare però. Sai di che questo? In Olanda ci sono più biciclette che persone? Cioè, mai che buchi c'hai la bici di riserva, funziona così. Probabilmente sì. Ok, lasciando stare questa piccola parentesi relativa alle biciclette, andiamo oltre e continuiamo a parlare dell'album che vi presentiamo oggi. Quest'album si chiama Sopravvivere agli amanti ed è uscito il 15 aprile, quindi qualche giorno fa. È un album totalmente prodotto, abbiamo detto, è l'album di debutto dei John Qualcosa e vanta la collaborazione di Filippo Cornaglia, che ha suonato un po' anche con Andrea Laszlo De Simone Bianco, ma anche Nicolo Fabi, e suona la batteria e le percussioni in quest'album Sopravvivere agli amanti. Il titolo dell'album tra l'altro omaggia a un film che si chiama Only Lovers Left Alive di Jim Jarmusch. Ma a livello musicale, però, a parte questa citazione cinematografica, è proprio una specie di viaggio molto intimo, diciamo, quest'album. Infatti vediamo l'unione, l'incontro tra il pianoforte, il violino, i sintetizzatori, una bellissima voce, una voce molto calda, che è la voce di Ambra Marie. Insomma, diciamo, si crea proprio davvero un ambiente molto intimo e molto particolare. E uniti appunto queste chitarre acustiche molto soavi, mi veniva bene come parola. La soavi con i delay, insomma, l'eco con pianoforte, violino, anche dei synth, però sempre molto leggeri e melodici, anche le percussioni che non irrompono mai troppo aggressive in tutta questa musica, no? Si tratta comunque di un album di un buon cantautorato, un cantautorato anche un pochino internazionale. Si diceva appunto che c'è una, diciamo, una canzone dedicata a Amsterdam, ma anche la presenza di paesi lontani a livelli musicali, a livello di influenze si sente. Tra l'altro a me è venuto in mente anche un altro film che ha un titolo che in inglese è bellissimo, è stato tradotto in italiano come Se mi lasci ti cancello, una cosa terrificante, però le loro canzoni mi ricordano molto l'immagine di questi due amanti che non riescono a separarsi, poi vogliono, poi non vogliono, insomma vabbè, direi che a questo punto possiamo continuare ad ascoltare dei pezzi estratti da Sopravvivere agli amanti. E tu cosa mi consiglieresti? Ma io continuerei con una canzone quasi felice, che è la traccia numero 7 di quest'album, che è quasi felice. Per scappare, vedere che ogni sera il sole va a dormire presto, fiorare. cosa che annebbiasse un po' il cervello e così penso solo al mio vestito a fiori, così piangerò colori. E intanto penso al mare, ai balli senza scarpe, al chiosco di chitarra che sussurra appena. I miei 30 anni, sono quasi 31, e non so che farmene di una canzone così felice, se non ho nessuno con cui cantarla. Ma a questo punto, rientrando dopo alcuni pezzi che stiamo ascoltando di questo album, è interessante sapere anche John qualcosa, che cosa ci dicono dell'album. Avete presente quella sensazione di quando guardate una vostra fotografia e sentite di essere usciti bene? Io no, però vabbè, questo è un altro discorso. Quello che vedete è esattamente quello che solo voi potete percepire nel profondo di voi stessi, ma che ora finalmente potranno vederlo anche gli altri? Ecco, sopravvivere agli amanti per noi è esattamente questo, una fotografia da incorniciare per ricordarci di quell'istante in cui ci siamo sentiti davvero noi, in tutte le nostre sfumature. È proprio effettivamente un disco molto intimo, che si sente nelle voci dei due artisti, che si sente negli accordi, come dicevamo, e nelle influenze, e anche nei richiami a tanti bei film o viaggi o bellissime città che si sentono appunto in questi 9 pezzi. I John Qualcosa, per dire qualcosa di loro, si sono formati nel 2011, ma hanno deciso di rimanere lì per un pochino, insomma, no? Hanno aspettato un po' prima di presentarsi, diciamo, al pubblico. Inizialmente scrivevano pezzi, lo registravano con un po' di mezzi di fortuna, realizzavano un videoclip e poi via, lo buttavano in rete, senza però occuparsi della distribuzione, di mandarlo in giro, di promuoverlo, insomma. Era già una cosa da cui partire, ma per loro andava bene così. Parallelamente ad altri progetti musicali, Ambra Marie e Raffaele D'Abrusco, che sono poi il duo dei John Qualcosa, continuano negli anni, oltre a appunto quello che fanno in giro nel mondo come altri progetti, si rifugiano nei John Qualcosa e aggiungono ogni volta qualche ingrediente in più, fino ad arrivare alla decisione di racchiudere tutto nel primo disco, appunto, che è Sopravvivere agli amanti. Nel 2018 John Qualcosa realizzano il primo tour, collezionando date nel nord e nel centro Italia, un po' qua e un po' là, tra cui ad esempio il Collisioni Festival di Barolo l'anno scorso, grande festival che speriamo di rivivere anche quest'anno. Quindi dopo questo lavoro che hanno fatto principalmente in studio, in sala prove e sui palchi, hanno deciso di racchiudere il loro lavoro all'interno di quest'album, l'album di esordio che appunto vi stiamo presentando oggi, che è Sopravvivere agli amanti, e che è uscito il 15 aprile 2020. Ricordiamo che il titolo appunto è poi un omaggio a un film. Beh, siamo giunti alla fine della presentazione del nostro disco della settimana. Questa settimana vi ricordiamo che abbiamo scelto i John Qualcosa, che presentano Sopravvivere agli amanti, uscito pochissimi giorni fa, e vorremmo dirvi chi ha partecipato a questo album. Le musiche e i testi sono dei John Qualcosa, appunto, del duo, diciamo. E l'album è arrangiato e prodotto dai John Qualcosa, ovviamente, da Mattia Degli Agosti e Alex Carnevali. I John Qualcosa sono Raffaele D'Abrusco alle voci, chitarre, basso, pianoforte, ukulele, synth, violino, altro no perché... E non ha più mani praticamente. Ambra Marie, voci e percussioni, e Mattia Degli Agosti alle batterie, percussioni e programmazioni. Le batterie e percussioni, come dicevamo prima, hanno visto la partecipazione di Filippo Cornaglia, che le ha registrate e prodotte. E ad esempio Filippo Cornaglia suona la batteria nella mia Amsterdam, mentre Michele Vanelli suona la chitarra elettrica in Questioni Irrisolte. L'album è stato registrato da Mattia Degli Agosti agli Illegal Studio di Cremona, mixato da Alex Carnevali al Bounce Recording Studio di Bologna, masterizzato da Federico Pelle e Alex Carnevali al Basement Studio di Vicenza. Insomma, ho girato un po' per il nord questo album. A questo punto noi vi salutiamo con un ultimo pezzo che è estratto da quest'album, che è anche l'ultima traccia dell'album. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento ai prossimi dischi della settimana e a tante belle cose su Radio Città Fujiko. Questa è una canzone dei Doors, cioè nel senso si intitola proprio una canzone dei Doors. Ascoltiamocela. Forse era una sera d'estate, ascoltavamo una canzone.